in primo piano. Allora, le aperture sono diversificate, andiamo un po' a vedere l'economia. Il Sole 24 Ore, lo yuan subito al record a 5 anni nel primo giorno di flessibilità della valuta di Pechino, che si apprezza dello 0,4%. Il Corriere della Sera, meno tagli alle regioni virtuose. Per Repubblica ancora le intercettazioni, legge bavaglio, monito del Colle, La Stampa, la polemica Fini-Lega, lite sulla Padania. C'è chi apre su Di Pietro, sono Di Pietro indagato, sia il Giornale che Libero. Così impari, titola il Giornale, mentre Libero dove ha messo i soldi, si chiede. Vedremo le altre aperture tra poco, come detto, aperture diversificate. Io aprirei la pagina politica, soprattutto allora ieri ha sicuramente rianimato una giornata politica l'intervista, o meglio la dichiarazione di Fini sulla Padania. La Padania è un'invenzione che va contro l'unità del paese, ha risposto Fini, la terza carica dello Stato, dopo il raduno di Pontida. Ed è su questo, insomma, che ci sono analisi, commenti, anche interviste. O la Padania mette un Fini in vignetta con gli occhiali, solo che al posto delle lenti ci sono le fette di salame. La Padania io non la vedo. E poi Umberto Bossi risponde in un'intervista a Repubblica. La concede ad Alberto D'Argenio. Gianfranco ha paura di chi lavora, paga le tasse e vota noi invece che lui. Bossi la prende un po' larga e dice: guardi, non ho bisogno di rispondere, lasciate parlare Fini, che la gente lo ascolta e lo capisce, bisogna aver fiducia della gente, non ho bisogno di rispondere. La Padania è talmente inesistente che a noi ha dato più voti che a tutti gli altri partiti. Prima di parlare basterebbe riflettere su questo. E poi Bossi dice: io non so se sia un attacco, un'altra cosa so. Fini abita molto lontano dalla Padania, non gira casa per casa, non conosce il territorio, per questo da noi non becca un voto. E riguardo alla Lega, c'è tensione tra di voi, c'è un po' di gente incazzata in giro, fa sapere Bossi. Me ne sono accorto perché a Pontida ho parlato di decentramento, che è un'altra idea della Lega che fa paura ai conservatori. E poi rilancia Bossi su questo: voglio spostare i ministeri in città come Milano, Venezia e Torino. Per me è una necessità e un'opportunità, per molti invece è una rivoluzione. Sono i centralisti che stanno acquattati nelle pieghe dello Stato. Insomma, Bossi rilancia su questo. Voglio riportare i ministeri a Milano, Venezia e Torino. E poi sulle intercettazioni lancia questa idea: io sono uno che sa dialogare e ragionare, vado subito a parlare con Napolitano per capire i punti della legge, è inutile spaccarsi la testa per niente, io posso arrivare a una soluzione condivisa. Come? Cambiando la legge anche negli aspetti più criticati? È chiaro che a questo punto parte della legge devi lasciarla per strada, è l'unico modo per portare a casa qualcosa. Dunque, anche sulle intercettazioni Bossi dice: saprei risolvere in qualche modo il rebus, anche se spiega e non spiega. Oh, sul tema Lega, in realtà, e su cosa ferve nella Lega, è interessante leggere sia il Foglio che il Corriere della Sera oggi in prima pagina, perché il Foglio dedica un fondo proprio in prima pagina su che cosa? Ce ne siamo occupati ieri, il giallo della nomina del ministro Brancher. Il giallo del ministro Brancher agita la Lega. Questo è il titolo del Foglio. C'è un super sospettato. Chi è il super sospettato? Lo vediamo tra poco. Allora, chi l'ha voluto? Perché? E adesso? Domande ansiose tra Roma e via Bellerio, cioè la sede della Lega a Milano. Così inizia il Foglio. Cioè, il giallo della nomina di Aldo Brancher a ministro per l'attuazione del federalismo, che ha guastato la festa padana di Pontida. I pretoriani sono convinti che la nomina di Brancher sia da attribuire a una fuga in avanti di Calderoli, eccolo il super sospettato per il Foglio. E non sarebbe la prima, anche se non si capisce se lo abbia fatto per assecondare gli alleati o per aumentare il proprio potere. Altri invece dicono che la nomina di Brancher è stata strumentalizzata. Ma certo, scrive il Foglio, la Lega sta attraversando una fase molto delicata e sarebbe prova di questo il fatto che l'ascesa elettorale ha avuto una serie di effetti collaterali, fra cui il più impellente è questo: ci sono più poltrone che dirigenti. Ecco perché due giorni fa Bossi ha detto a Calderoli, che è coordinatore del partito, falli studiare. Cioè, come dire, una esplosione, un successo che ha creato tanti dirigenti e che ora vanno gestiti. Come detto, abbastanza simile in prima pagina l'editoriale del Corriere della Sera di Pierluigi Battista è questo: l'enigma Brancher, ascesa in nomina di un ministro. La nomina di Aldo Brancher, scrive Battista, a ministro, è il nuovo conturbante mistero politico italiano. È stato promosso con velocità fulminea, all'insaputa di tutti, imponendo un doppione creato dal nulla. Mistero politico. È misterioso che il Presidente del Consiglio abbia deciso di appesantire un governo che si vantava di aver costruito snello, essenziale. È misterioso che invece di nominare speditamente il ministro che da oltre un mese e mezzo dovrebbe prendere il posto di Scajola, si rinvia la decisione sine die e nel frattempo si aggiunga un ministero controverso. Senza nemmeno avvertire gli alleati, i ministri, gli esponenti di punta, neanche la stampa, una volta ancora. Perché? Il sospetto, dice Battista, delle opposizioni è che Brancher potrebbe così avvalersi, come tutti i ministri, delle nuove leggi sul legittimo impedimento per procrastinare le vicende giudiziarie che lo riguardano. Allora sarebbe il caso che i responsabili del governo spiegassero qualcosa di più, mettessero a parte gli italiani di una scelta tanto estrosa, altrimenti alimenterebbero ogni tipo di sospetto. Diano un significato politico a una decisione che sembra solo molto personalizzata e di tutto abbiamo bisogno, tranne che di un governo ad personam. Questo editoriale molto incisivo di Pierluigi Battista in prima pagina sul Corriere. La politica ovviamente si anima anche per politica e cronaca, no? Case e potere, adesso c'è Case e Vaticano, è il nuovo fronte che si è aperto. Sapete che oggi trovate ancora tanto sui giornali, no? Di questa vicenda che vede indagato il cardinal Sepe, insieme iscritto al registro degli indagati insieme all'ex ministro Lunardi. Secondo il Corriere della Sera potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati a ore anche, potrebbe aggravarsi la posizione dell'ex ministro Scajola. Il Fatto ci dedica pagina 2 e 3 con Marco Politi, che è un vaticanista. Sepe, la casa Bertolaso e la tattica del martirio. Intanto critica Politi questa idea di fare più che una conferenza stampa una comunicazione alla stampa, no? Perché ha chiesto di non fare domande e ha messo in chiaro tre cose Sepe. Questi sarebbero i tre punti che ha voluto chiarire. Primo: sì, a Bertolaso l'appartamento è stato dato dal professor Francesco Silvano, ma poi non me ne sono più occupato. 2. Per i lavori di Piazza di Spagna, il palazzo di propaganda Fide, fu accertata la competenza dello Stato italiano. 3. La vendita a Lunardi del palazzo di Via dei Prefetti, prezzo stracciato di 4,16 milioni di euro, avvenne a condizioni giuste perché l'immobile era vecchio e malandato. E tra l'altro il codicillo finale di Sepe è questo: mi avvalsi della collaborazione di 3 persone. Angelo Balducci, che è in carcere per la vicenda insomma degli appalti al G8, il professor Silvano, quell'economo della curia che Bertolaso ha detto è lui che mi ha dato l'appartamento, e il presidente, l'ex presidente del TAR del Lazio, che è stato nominato da pochi giorni presidente del Consiglio di Stato, Pasquale Delise, il quale solo sul Corriere, per la verità in un trafiletto tirato in ballo da Sepe, si difende. Lo troviamo sul Corriere a pagina 10. Delise tirato in ballo dal cardinale. Mica ero l'agente immobiliare di propaganda Fide, così mulinando una mano nell'aria di chi la sente dire grossa, reagisce Pasquale Delise, nominato il 18 giugno, quindi da pochi giorni, presidente del Consiglio di Stato. Ma in realtà la cavolata, tra virgolette, l'aveva detta al suo amico Lunardi. Ed ecco qui Delise. Ma per carità, a parte che Lunardi non lo vedo da tempo immemorabile, io resto e sono consultore di propaganda Fide, ma è una carica onorifica. Non che io sia particolarmente legato al Vaticano. Mi chiamano per dei problemi generali, di questo non si parlò, semmai dell'idea di trattare la compravendita di interi palazzi con una sola persona. Ma insomma, riguardo a se stesso, io penso di avere un certo pedigree, dice Delise. Non mi sarei mai messo a trattare vendite o acquisti. Capisco che il cardinal Sepe voglia scaricare. Bisogna avere carità cristiana, ma la mia è una negazione radicale. Insomma, quindi Delise dice: c'è questo fronte in cui Delise dice assolutamente rimando al mittente e capisco che il cardinale voglia scaricare, anche una frase come dire si voglia attaccare a qualsiasi cosa, Tra l'altro, fa notare il Corriere, Sepe al contrattacco i miei bilanci vistati dal Vaticano. Anche se la notizia più interessante su il Cardinal Sepe la dà Libero, con Gianluigi Nuzzi, uno che di queste cose se ne è molto occupato, ha scritto anche un bel libro, Vaticano S.P.A., che ha avuto anche molto successo. Scrive due notizie. Prima, Nuzzi intervista l'unico magistrato che in passato si mise cercare di indagare un cardinale, vale a dire il cardinal Giordano, sempre a Napoli, ed era l'ex procuratore capo di Lago Negro Michelangelo Russo, che ora è turbato e dice: guardi, io me lo ricordo, disgraziatamente sono stato l'unico a cagionare un incidente diplomatico tra Italia e Vaticano dopo la presa di Porta Pia. È stata l'indagine più drammatica della mia vita. E oggi dice: attenzione, aprire un'inchiesta contro un prelato è la fatica più grande della vita di un giudice. E anche Nuzzi dice: non le sembra di esagerare? Guardi, io ci sono già passato nel 98. Ho mandato le pattuglie della Guardia di Finanza nella Curia Napoletana. I finanzieri in quelle stanze a perquisire gli uffici rappresentano un problema serio. Si oppone infatti l'extraterritorialità dell'arcivescovado, perché rimane difficile individuare la separazione netta tra spirito e denaro. Fin dove possono spingersi i finanzieri? Possono aprire i luoghi di culto? E allora ricorda, ci fu una dura nota del Cardinal Sodano, a Palazzo Chigi c'era Romano Prodi che ci chiamò e voleva sapere che cosa stava succedendo. Io feci una nota molto riservata, il che Prodi assunse una posizione ufficiale e ci difese. Però certo, fu un'indagine drammatica. La seconda notizia legata a questo la scrive Gianluigi Nuzzi in prima pagina ed è questa: tenetevi forte. I 20 chili d'oro del Cardinal Sepe. Spuntano decine di lingotti d'oro tra i beni nascosti di alcuni dei protagonisti dell'inchiesta per corruzione. Secondo quanto risulta a Libero, nella banca del Papa, lo IOR, l'Istituto di Opera di Religione, sono custoditi oltre 20 kg in lingotti d'oro in una cassetta di sicurezza riconducibile a uno dei più stretti collaboratori del Cardinal Sepe. Protetti da una banale carta da pacchi, riposti in una scatola di cartone, lingotti protetti in banca da diversi anni. Lingotti da 20 kg, l'oro del Cardinale nella banca del Papa. Chiudo solo, prima del traffico, con Barenghi, Iena, su questo. Opere di misericordia, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti, alloggiare Bertolaso. Cito solo che trovate molto di Di Pietro indagato per truffa, si sarebbe intascato dei rimborsi elettorali delle europee, andate a un'associazione privata e non al partito, si difende all'Unità in un'intervista, ci sono già state 3 archiviazioni sul caso, è molto attaccato dal giornale Libero, lo cito così perché non c'è mai tempo. E allora passiamo al Sole 24 Ore, perché è il giorno di Pomigliano, in cui i lavoratori di Pomigliano devono votare, esprimere il loro giudizio sull'accordo raggiunto dalla Fiat e 4 sigle sindacali, non dalla FIOM. A questo è legato lo sblocco di 700 milioni di euro per trasferire la produzione della Panda dalla Polonia all'Italia. Solo che si profila che cosa, e oggi Giorgio Pogliotti lo scrive a pagina 5, quella che già ieri Repubblica l'anticipava come soluzione C, e cioè la soluzione C di Marchionne: creare una new company controllata dalla Fiat, alla quale conferire le attività produttive di Pomigliano, in modo da procedere alla riassunzione di ciascun dipendente, che sarebbe così chiamato a sottoscrivere un nuovo contratto rispondente a nuovi criteri, quelli contenuti nell'accordo separati, con le deroghe ovviamente al contratto nazionale. Un meccanismo già applicato per Alitalia e Parmalat, che però erano in amministrazione controllata, e quindi sarebbe una novità incredibile nel panorama delle relazioni industriali, perché finora le deroghe sono state concesse in occasione, per esempio, di start-up, di aziende specie nel mezzogiorno, ma non di un'azienda che non si trovi in condizioni, diciamo così, particolari. Tanto che sul Foglio, uno dei 3 editoriali che compaiono a pagina 3, è proprio questo: modesto consiglio a Marchionne sul piano C. come estrema razio l'idea estrema di proporre a tutti gli operai che voteranno sì di essere trasferiti dalla Fiat Auto a un'altra società nuova di zecca, libera dal peccato originale, tra virgolette, di avere sottoscritto il contratto nazionale. Ma in Italia, si chiede il Foglio, passerà mai un simile atto di forza? L'alternativa in premessa ha una conclusione: o Marchionne cerca rogne e pretesti per chiudere lo stabilimento di Pomigliano senza prendersene la colpa, oppure vuol costringere anche la Fiomma a dire sì. Sicuri che non esista una terza soluzione e meno sanguinaria? Ovviamente gli occhi sono tutti puntati su Pomigliano. Oggi il Manifesto in prima pagina mette il tipico post-it che ha reso celebre Repubblica con questa campagna contro la legge Bavaglio, e nel post-it si legge: l'accordo separato di Pomigliano d'Arco, imposto oggi con un plebiscito ai lavoratori, cancella il diritto di sciopero e viola la legge. C'è anche un editoriale di Loris Campetti dal titolo "I cancelli costituzionali", è molto critico il Manifesto: chissà se questa notte festeggerà la vittoria Sergio Marchionne, chissà se gli basterà il 70, l'80, se prenderà il 90% di sì per dire che la panda si può fare a Pomigliano, chissà se è vero che la Fiat vuole costruire automobili in quest'angolo reietto d'Italia, patria di ogni male, o se è solo alla ricerca di un capro espiatorio per dire "non possumus". Noi avremmo voluto fare questo regalo al paese che da oltre un secolo ci dà da mangiare, ci sostiene, ci finanzia, ma ci sono quei residui novecenteschi della Fiom che si aggrappano al contratto, alla Costituzione e perfino alla Carta di Nizza per mettere i bastoni tra le ruote del progresso. Insomma, vedremo come va a finire. Io sono davvero in conclusione, voglio solo segnalare due citazioni da Repubblica. L'ultima tentazione di Como: vogliamo diventare svizzeri. A Como vogliono andare in Svizzera perché è un referendum chiesto da uno psichiatra elvetico che vuole annettere del Canton Giura, si vuole annettere la Val d'Aosta ma anche Como. E a Como il giornale La Provincia di Como ha lanciato un sondaggio e il 75% dei comaschi direbbero: ma sì, preferiremmo la Svizzera. È il giorno dell'esame di maturità, io lo voglio citare con Gene Gnocchi sulla Stampa, straordinario oggi. Esame di maturità sorpresa, il tema di storia antica è su Fabio Cannavaro. E allora fatemi chiudere con un'autocitazione, visto che io voglio ricordare che da oggi per un mese, siamo anche noi un po' di Radio 24, orgogliosi, ci potete trovare in allegato al Sole 24 Ore, potete comprare il primo libro legato a una trasmissione, anche una trasmissione che ha avuto grande successo, sta avendo grande successo, vale a dire Zot, Fulminati in azienda, perché insomma è un libro, una trasmissione diventata un culto che mette un po' in luce i vizi, i vezzi, le virtù della tipica vita in azienda. La potete trovare in allegato col Sole 24 Ore per un mese a partire da oggi in edicola.